24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Chi porterà la banda ultralarga nelle casse degli italiani? Chi gestirà il piano del governo che permetterà di avere collegamenti a internet più veloci, come accade nei paesi più industrializzati? La partita al momento sembra in stallo perché non è stato ancora individuato chi materialmente metterà i cavi di fibra ottica. In pratica serve l'infrastruttura e qualcuno che la costruisca. In prima linea ci sarebbe l'Enel, a cui Palazzo Chigi avrebbe pensato di affidare le chiavi del progetto con un finanziamento di 6 miliardi e mezzo di euro in 5 anni. Il gruppo, controllato dallo Stato, sfrutterebbe la rete dei suoi cavi elettrici per portare in ogni casa l'internet super veloce. Il colosso, guidato da Francesco Starace, avrebbe il vantaggio di possedere già una rete in grado di raggiungere anche il paesino in alta montagna e la possibilità di posare la fibra ottica anche sui tralicci, risparmiando sui costi poiché non si dovrebbe necessariamente passare i cavi sottoterra. Si tratterebbe inoltre di un primo passo per una complessiva ristrutturazione del settore delle telecomunicazioni, che dovrebbe comprendere anche le reti per le trasmissioni radiotelevisive. L'obiettivo di fondo sarebbe quello di conservare il controllo pubblico del sistema delle infrastrutture. Nei mesi scorsi il governo ha avviato contatti con diverse società, fra le quali Metroweb, anch'essa controllata dallo Stato, Vodafone e Telecom Italia. Il dialogo con quest'ultima sembra essersi deteriorato, ma c'è da ricordare che un anno fa l'azienda telefonica aveva siglato un memorandum di accordo proprio con Enel, che prevedeva, fra le altre cose, la possibilità di utilizzare i tralicci per far passare la fibra ottica. E nei giorni scorsi Telecom ha annunciato un accordo con Fastweb per portare i 100 mega al secondo in tutte le case con un mix di fibra ottica e cavi di rame. La partita, insomma, è ancora aperta. Antonello Giacomelli, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega alle comunicazioni del governo Renzi. Ecco, onorevole Giacomelli, buongiorno. Buongiorno. Il governo Renzi non è certo il primo che definisce prioritaria banda larga. Stavolta ci siamo? Sì, ci siamo perché Renzi l'ha messa come obiettivo strategico del governo. Ma chi la fa? Telecom, Poste o Enel? La fanno tutti gli operatori privati. Enel è un facilitatore, ma non è un soggetto in competizione con gli operatori. Senta, però qualcuno dice che mettere in campo Enel sia l'equivalente di mettere una pistola alla tempia di Telecom da parte del governo. Insomma, tra governo e Telecom è guerra? No, è una lettura sbagliata su Enel. Enel fa il suo piano industriale. Il fatto che metta il suo piano industriale a servizio degli operatori è tutt'altro che una pistola, semmai un aiuto. Il presidente dell'Enel, Patrizia Greco, infatti dice: l'energia è il nostro mestiere, ma è chiaro che le infrastrutture devono evolvere. Qui c'è l'apertura per la banda larga, mi pare. Esatto, poter utilizzare i cavi dotti di Enel, mi pare, abbatta i costi e alza gli obiettivi della banda. Senta, ma la privatizzazione di Telecom è stato un errore? A mio giudizio sì. Sbagliata, fatta male anche. Fatta male non posso fare il sindaco revisore dei colleghi del passato. Sbagliata come principio sì, mettere lo sviluppo di un'infrastruttura strategica non in relazione alle esigenze del paese, ma in relazione alle possibilità di investimento di un privato è concettualmente un errore. Infatti il settore delle telecomunicazioni in Italia appunto è privatizzato da anni, ma gli investimenti che avrebbero dovuto fare gli operatori privati non ci sono stati. Diciamo, ci sono stati secondo i criteri che un privato utilizza per gli investimenti, cioè la redditività. Un paese per le sue infrastrutture strategiche ragiona in modo diverso. Certo. Poi non mi rassegno a considerare che Francia e Germania siano... Di questo volevo dire, appunto, Francia e Germania che non hanno privatizzato sono più avanti. Sì, quindi il pubblico fa meglio del privato, tradotto in italiano. Il pubblico per le infrastrutture ha più libertà del privato. Un'azienda privata deve considerare forzatamente la redditività di un investimento. Il pubblico deve considerare l'interesse per il complesso del paese. Ecco, onorevole Giacomelli, senza la banda larga comunque siamo fuori dal mondo moderno e gli investimenti frenano. Per esempio, colossi come Netflix, senza una sufficiente quantità di giga per la navigazione, non potranno mai arrivare in Italia. Allora niente Netflix in Italia? Netflix arriverà e arriveranno gli altri. Peraltro Netflix è un paradigma che usiamo. Certo, arriveranno anche nuove Netflix. Certo. Il futuro arriverà comunque. Tocca a noi decidere se farci travolgere o giocare da protagonisti. Ce la faremo a vedere qualche decisione concreta prima dell'estate? La decisione concreta io spero arrivi già nella prossima settimana con il decreto comunicazioni. Ah sì? E cosa ci sarà nel decreto? Ci saranno le risorse, ci saranno le modalità degli incentivi, ci saranno i tempi. Quante risorse? Molte, più di quelle che qualsiasi altro governo ha mai messo. Mi dice un numero? 7 miliardi pubbliche. 7 miliardi pubbliche per la rete? Sì. Bene. E ora tocca agli operatori, che non hanno più evidentemente nessun alibi, se il certo. governo fa la sua parte, fare la loro. Senta, in Italia usa internet il 59% della popolazione contro il 75% della media europea. Le persone che non l'hanno mai usata sono il 32% contro il 18%. Ecco, ci vuole una, come dire, la TV pubblica ha insegnato l'italiano agli italiani col maestro Manzi, ci vuole un maestro Manzi digitale? Occorre un'azione di facilitazione alla rete, di accesso alla rete. Don Milani avrebbe, diciamo, preferisco lui come riferimento, come esempio, certo. avrebbe insegnato, come allora insegnò l'italiano come strumento per essere più cittadini, oggi avrebbe insegnato i nuovi linguaggi e i nuovi saperi. Senta, onorevole Giacomelli, il Censis ha fatto una stima secondo cui questa arretratezza costa all'Italia 3,6 miliardi di euro l'anno, una follia. Sì, una follia, e tocca a noi porci rimedio, da una parte l'infrastruttura, dall'altra i nuovi linguaggi e le nuove competenze, e poi lo sviluppo di un'agenda digitale che è in ritardo. Ma l'agenda digitale ha cambiato di nuovo la testa, stavolta riparte? Sì, riparte, è oggettivamente una sfida difficile, ma noi siamo convinti di poterla vincere. Senta, onorevole Giacomelli, intanto una nuova frontiera è quella aperta su internet dal diritto all'oblio. Per la prima volta Google non si nasconde più dietro a un dito e non dice di essere un motore di ricerca, ma ammette di essere un editore e riconosce il diritto alla privacy. In che termini? Beh, intanto Google ha fatto un bellissimo accordo, ha sottoscritto un bellissimo accordo con il garante della privacy italiano, Antonello Soro, ed è il primo che viene fatto in Europa, che dà al garante la possibilità di verificare direttamente nella sede di Google l'adempimento degli impegni di questo over the top rispetto alla privacy. Ma noi pensiamo che il dialogo, il confronto sia la strada migliore con gli OTT. Ma abbiamo tutti lo stesso diritto a essere dimenticati dopo un certo periodo, dopo questo accordo? No, c'è la contemperazione, come lei sa, di due diritti, il diritto alla riservatezza, ma anche il diritto a essere informati. Certo. Ora, io penso che la pronuncia della Corte europea abbia in questo un errore, non voglio essere veloce, quindi rischio di essere tranciato. La contemperazione di questi due diritti non può essere rimessa al singolo individuo, occorrerebbe, diciamo, un authority che valuti se è prevalente in ogni caso il diritto alla riservatezza a essere dimenticati o quello alla corretta e completa informazione. Quindi l'ultima parola a un authority? A mio avviso occorrerebbe correggere così la sentenza. Non basta la volontà dell'interessato? No, per perché la volontà dell'interessato può essere anche quella di un signore che è al centro di un'inchiesta spiacevole qualche anno fa, vuole cancellare queste tracce, il pubblico ha diritto di sapere. Senta, onorevole Giacomelli, la centralità delle over the top nel mondo, Facebook, Google, Amazon, Twitter, ci costringe effettivamente a ragionare in termini innovativi sui diritti, come stiamo facendo, ma anche sulla fiscalità, perché è giusto che le over the top non paghino le tasse, se non in minima parte, nei paesi nei quali guadagnano, è giusto? No, non è giusto, però diciamo le over the top rispettano le leggi esistenti, tocca all'Europa mettersi nella condizione. Sì, ma io sto parlando, non accuso le over the top, accuso i governi e l'Europa di non essere adeguati alla realtà fiscale che si è venuta creando con il potere, il superpotere delle over the top. C'è un ritardo evidente delle istituzioni, mentre questi nuovi soggetti si muovono su scala globale, le istituzioni parlano ancora in scala nazionale. Quindi almeno a livello europeo sulla fiscalità delle over the top è necessario cominciare a parlare? È quello minimo, ma mi faccia dire che l'idea che l'Europa raggiunga un obiettivo di armonizzazione fiscale mi pare fantascienza. Allora faranno sempre quello che vogliono. No, occorre un dialogo diverso, e come si è dimostrato sulla privacy, i risultati si possono raggiungere. Però gli OTT non sono nemici, sono un nuovo modello. No, ma certo, non sono nemici, ma sono persone rispetto a, sono entità economiche rispetto alle quali bisogna avere una strategia. Assolutamente. Perché sennò, ecco, i produttori di contenuti, per esempio, accusano esplicitamente questi giganti di evasione fiscale. Senta cosa ci hanno detto due grandi editori italiani come Fedele Confaronieri e Carlo De Benedetti. come industria dei contenuti nel suo complesso, non abbiamo capito che la tecnologia sarebbe stata sfruttata da questi signori che si presentavano come dei tecnologi per un'operazione puramente commerciale. Non abbiamo proprio capito che loro ci vendevano l'algoritmo, in realtà si fottevano la pubblicità. Noi nel 2006 abbiamo cominciato a prendere le distanze, ad attaccare Google, YouTube, a fare delle diffide. Nel 2008 abbiamo fatto una causa, ma perché? Non solo per un fatto fiscale, però quello che chiedo è che questi signori, questi over the top, abbiano lo stesso regime nostro. Ecco, lo stesso regime nostro. È una richiesta lecita o no? Pronto? Non lo stesso, uguale, ma che siano sottoposti agli stessi obblighi, sì. Però mi faccia dire che un tempo mandare in onda una registrazione in cui De Benedetti e Confalonieri usavano gli stessi concetti sarebbe stato un titolo per tutti i quotidiani. No, ma mica un tempo, sono 4 mesi fa che l'abbiamo fatta. non sono anni fa. E oggi invece... Proprio alla Camera l'avete fatta, eh? Oggi non fa notizia che dicano le stesse cose. No, oggi no, però riflettere sulla web tax... Invece fa notizia, perché il presidente Renzi è contrario alla web tax. Nel PD non tutti la pensano come lui. Boccia, per esempio, ha detto delle cose diverse. Lei come la pensa sulla web tax? Ha ragione il presidente Renzi, perché il livello minimo, come abbiamo detto, è un livello internazionale, almeno europeo. Però mi faccia dire che i risultati che stiamo raggiungendo con l'interlocuzione sono significativi. Amazon ha aperto la sede in Italia dal 1 maggio, come in altri paesi europei, cioè sarà soggetto alla fiscalità. Senta, noi quanta gente lavora ad Amazon Italia? No, per curiosità. Beh, questo bisognerebbe chiederlo ad Amazon. No, lo dico, però quanta gente fa lavorare Amazon in Italia? Appunto. Quante aziende fa vendere Amazon? Sì, ma gli utili dove arrivano? Gli utili Amazon ha aperto la sede in Italia e risponderà alla fiscalità italiana. Però se noi ammettiamo che in Europa ci possa essere un paese dove la fiscalità è diversa da quella italiana e sia legittimo aprire lì la sede operativa. Parliamo dell'Irlanda, per esempio. Per esempio, che colpa ha? Io riconosco molte, no, ma io non do colpe. Molte virtù ad Amazon, ma non è la Croce Rossa. No, tocca all'Europa fare un'armonizzazione fiscale. No, certo, ma appunto per questo partire dalla web tax è una cosa che poteva aiutare. Io preferirei partire dall'accettazione della sfida culturale che la rete rappresenta. O noi accettiamo che non è un tema settoriale, ma cambia per intero il nostro modo di concepire lo sviluppo, il business, la cultura, le relazioni, o noi ci marginalizziamo su un tema senza trovare la strada. Sì, ma delle leggi bisogna farle, assolutamente, perché sennò stiamo sul piano culturale. Questi soggetti agiscono su un livello globale, le istituzioni devono porsi in condizione di operare allo stesso livello. Senta, onorevole, sul tema dell'evasione fiscale di Google c'è un contrasto tra la Guardia di Finanza di Milano e l'Agenzia delle Entrate. La Guardia di Finanza dice che i veri ricavi di Google, appunto, non passano per l'Italia ma volano direttamente all'estero, dove la tassazione è più dolce. Penso che si riferisca appunto all'Irlanda. Chi ha ragione? No, non credo ci sia un contrasto. Il problema è utilizzare una sede europea diversa. È legittimo o no? Allora, io penso che finché, torniamo allo stesso discorso, certo, finché non ci sono normative europee in grado di dialogare in modo efficace, avremo di questi casi. Però Google intanto deve rispettare, come ogni altro paese. Siamo ancora un po' nel far west, però, perché sono stati più bravi e più veloci. Diciamo, non tocca a me scoprire che la globalizzazione è stata più veloce quanto il rispetto. No, vabbè, ma voi state inseguendo da anni non riusciamo a metterci d'accordo neppure su una direttiva sulla sicurezza delle reti. Appunto, il presidente della FIEG, sempre sul tema, Maurizio Costa, ha chiesto a Google di pagare per i diritti editoriali che immette nel suo sistema. Lei è d'accordo che paghi? Sono d'accordo, ma credo che anche Google lo sia. Credo che ci sia una trattativa in corso con alcuni grandi gruppi editoriali. Mi pare l'accordo sia stato già trovato. Io confido che nei prossimi giorni, anche con la FIEG complessivamente, questo avvenga. In realtà Google risponde che l'indicizzazione delle notizie non si può considerare alla stregua della diffusione dei contenuti. Diciamo, per ora siamo trattativa, a schermaglie di trattativa, però. Una trattativa abbastanza ancora in alto mare, mi pare, no? Vediamo, io sono convinto che rapidamente potrà concludersi positivamente. Senta, è cominciato l'iter per la riforma della RAI. Quando ne prevede l'arrivo in aula? Diciamo la riforma della governance della RAI, la riforma della RAI, come lei sa, potrebbe dire meglio di me, è cosa più ampia e più ambiziosa. No, parliamo della governance. La riforma della governance in questo momento è in commissione al Senato, credo sia ragionevole immaginare che entro metà giugno arriverà in aula al Senato e entro luglio, come ha detto il Presidente del Consiglio, avremo concluso l'iter parlamentare. Ci sarà l'approvazione? Sì. Entro luglio? Sì. Quindi intanto i vertici sono scaduti, la proroga automatica quanto può durare? Luglio allora? Beh, può durare quanto decidono i soci. Lei una vaga idea ce l'avrà, no? Sì, io spero che riusciamo a fare il cambio prima della pausa estiva. Senta, prima della pausa estiva ci sarà il cambio. Senta, dei nostri ascoltatori, uno ci ha scritto: i tempi per realizzare l'infrastruttura con i 7 miliardi promessi, quali sono i tempi? Il nostro obiettivo è il 2020, perché quello è l'obiettivo che ci dà l'Europa. Diciamo che ragionevolmente, se concludessimo tutta l'Italia entro il 2022, saremmo molto contenti. Gli obiettivi europei però, che sono il 75%, saranno raggiunti entro il 2020. Senta, un altro ci scrive: 7 miliardi in quanti anni? Negli anni esattamente del piano, cioè in quelli entro il 2020. Ah, 7 miliardi però da qui al 2020? Anni. Non è in quanti anni. Sono spiccioli. No, allora, al contrario. Il punto è quanto costa l'infrastruttura, non quanti anni ci mettono gli operatori a realizzarla, non è un dipende tema da loro, dalla quantità di risorse. Aiutano le risorse, no? Aiuta più l'operatività di Enel, che consente, come diceva la sua scheda, di eliminare molte necessità di scavi e quindi accelerare la realizzazione. Senta, c'è Mario Secchi, prima di concludere, che le vuole fare una domanda. Buongiorno Giacomo. Buongiorno. Sul contratto di servizio della RAI, che secondo me è la vera partita, avete già diciamo un'idea, a grandi linee, di che cosa fare? Sì. Perché diciamo, lì si gioca poi la partita sui contenuti, esatto, aprire il mercato. Esatto, credo che sia quello anche a cui si riferisse prima Giovanni Minoli parlando della riforma complessiva della RAI. Certo. Diciamo così, noi abbiamo spiegato che mettere in atto il contratto di servizio, il rinnovo del contratto di servizio, che come se lei sa una tappa parziale, era inutile in previsione del rinnovo della concessione complessiva che riscrive il mandato di servizio pubblico. Il Consiglio dei Ministri, approvando il testo della riforma della governance, ha anche licenziato un documento strategico in cui ci sono alcuni degli obiettivi su cui noi reimposteremo la nuova concessione. Grazie onorevole Giacomelli, buon lavoro. 800 24 00 24, 3 è il numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Mario, intervista a Giacomelli, che titolo faresti? 7 miliardi di speranza? Sì. La rete, in fondo, puntano anche loro sulla rete. Bisogna vedere se mettono d'accordo tutti. Non ho capito il titolo. E non c'è il titolo. Non c'è ancora il titolo, perché il piano è tutto in divenire. In realtà, Pietrangelo, ascoltandolo, mi è venuto un titolo, e poi ci metto pure il sottotitolo. Va bene. Il titolo è, in parole di Giacomelli, il presidente Renzi ha ragione, ma il sottotitolo è: il presidente Renzi avrà ragione, ma Boccia dice la verità. sulle web tax, menando il camperlaia, come si suol dire. Fanno i regali ai potentati, signori renziani. Senti, signori renziani, mamma mia, ma fa sempre propaganda sto ragazzo. Sì, propaganda, anzi, la contropropaganda. No, appunto, no, ma senti, Mario, ma dice Andrea, ma i tralicci non sono di Terna? No, non tutti sono di Terna. Terna ha delle, ovviamente è un gestore. Terna è il gestore della rete, uno dei gestori della rete. O dei fili? Guarda, non lo so. Ah, va bene, perché, allora non importa. Perché tutti hanno un pezzo di rete. Scusa, Telecom ha un pezzo della sua rete, ha i cavi, tanto per dire, è il doppino che ti entra in casa. E così, che ne so, un altro operatore che mi viene in mente, Fastweb, tanto per dire. Cioè, è nella partita. Cioè il vero tema è mettere insieme tutti questi, i regolatori, i gestori. Insomma, non ce l'ha fatta Telecom perché è stata sbagliata la privatizzazione. Diciamo, in Francia e in Germania le Telecom sono rimaste pubbliche. pubbliche, le infrastrutture le hanno fatte loro. Perfino British Telecom ha superato l'esame della TAC. Io ho fatto un incontro con i vertici di Telecom da poco su questo tema proprio. Ma insomma, però fare queste operazioni significa anche fare poi chi vince e chi perde, e soprattutto chi si accolla alle perdite in questo caso. Adesso arriverà, che potrebbero esserci in futuro, nessuno sa ipotecare il futuro. Fare impresa vuol dire anche prendere dei rischi, però, perché sennò... però evidentemente non tutto era chiarissimo. Una privatizzazione mal fatta. Sicuramente. Ma andavano privatizzate, dai, in fondo le tariffe si sono abbassate per tutti in quel settore. D'accordo. Comunque adesso vedremo anche l'entrata di Bolloré che cosa produrrà. Vediamo. Che diventerà l'azionista di riferimento. Vediamo. Bolloré, no? Mi pare. Bene. Canzone. Arabi, normanni, fenici, barbari, sicani, quattro croci, erano 3000 quanto i greci, c'era un santo nero e gli africani. Sono passati secoli e le facce sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Non so stare senza questo sonno, questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa. È bella questa canzone. Sì, bella, perché oggi non ho preso la metropolitana. Meglio, ho preso la metropolitana, però oggi sono stato preso dalla nostalgia, perché sono entrato alla stazione di Cornelia e una carezza segreta lì, che è stato uno sbuffo di Gelsomino, mi ha trascinato oltre il faro, con il convoglio che saltava i binari sotterranei per salpare la tratta di mare, quella del postale, che è appunto quello che da Napoli porta a Palermo. E siccome la mattina di oggi aveva aurora, dita rosate, dalle onde che ho visto facevano riverbero di giochi e di salti i cavallucci, mentre i pesci spada si organizzavano in un torneo per apparecchiare la festa a Nostos, cioè appunto la nostalgia, e ho sentito il rosmarino dei Nebrodi, poi il miele di Melilli, il vento su Enna, la solitudine di Siracusa, poi gli agrumeti che andavano verso Palermo e poi i tramonti di giugno che sono prossimi ad arrivare e le notti d'estate che sono pronti a versare gocce di luna sul golfo di Castellammare. Quindi ho aperto gli occhi e mi sono ritrovato alla stazione Termini, rapito però dalla voce di Lello Analfino e dei Tinturia. O padre di ciò figli, un paro sbaglio, va bene di sta terra con le cosa. Tu Mario la prendi mai la metropolitana? Ogni tanto sì. Ti viene anche te tutto. No, io tutta questa cosa entro, bellissima, viaggio poetica. No, non ti ispiri, no, se vedi delle belle ragazze, ecco. Sì, ma sono un soggetto che anche quello è diventato poco interessante per sé. Senti, che cosa ci racconti oggi? La tua pentola cosa ci propone? Un pentolone di notizie, di dati, di cose. Bene, dai, andiamo. Ma facciamo sentire un po' di più. Beh, vedi, io non vado in metropolitana, però la musica è buona, secondo me, così. Allora, cosa succede, Giovanni? Succede che noi siamo in una fase di vigilia del voto, praticamente, o quasi. Certo. In realtà però, insomma, vabbè, nel mondo succedono cose un po' più importanti. Tutti hanno gli occhi puntati sugli Stati Uniti. Domani dovrebbero essere saranno diffusi i dati del PIL, e vediamo se la ripresa americana tiene, soprattutto se è un po' meglio dell'ultimo trimestre diffuso, perché non era per niente buono, però tutti sono fiduciosi. Dovrebbero esserci i dati sulle riserve di petrolio americane oggi del Dipartimento dell'energia, è un altro dato da tenere d'occhio. Questi combinati più con altri indicatori diranno un po' quale sarà poi la politica della banca centrale americana, cioè della Federal Reserve. Dal Giappone arrivano buone notizie, anche se vanno in qualche maniera mitigate. I consumi sono tornati a crescere nel 5%, era un problema che stava diventando problemone per Shinzo Abe. Quindi anche qui la Banca del Giappone dovrebbe continuare la sua politica espansiva. Inoltre l'aumento delle retribuzioni in Giappone, il governo e le imprese private hanno aumentato le retribuzioni, che ne so, giganti come Toyota, tanto per dirne uno, dovrebbero dare i loro frutti per anche, rilanciare i consumi. Anche su, esatto, su questo punto. In breve, tutta la politica, come vedete, è in mano in qualche maniera ai governi e alle loro banche centrali. Questo... Tutto questo, sono una cosa acchiosa, diciamo così, dalle considerazioni finali del governatore di Banca Italia. Insomma, non è che sia venuto fuori poi chissà che cosa. Mi sembra che sia... No, secondo me c'è una forte stanchezza di soggetti che un che tempo parla. Erano centrali e oggi lo sono con Vabbè, Renzi con la sempre banca, meno. Con la BCE naturalmente. Sì, per una questione BCE, di sistema, ma secondo il me sistema è anche, si è spostato, il potere si è spostato in è anche un, e si c'è, vede. C'è si un vede. Effetto Renzi, guarda, in Italia molto forte sotto questo profilo. Poi io non so se riuscirà veramente a governare. Vabbè. Il signor Renzi, se, però intanto a parte Renzi, a noi ci chiedono notizie della quota rosa, perché Sara Tardelli sono tre giorni che non fa quota rosa e che non è stata tanto bene, ma da lunedì certamente sarà qui perché manca, e intanto se ci ascolta la salutiamo e l'abbracciamo. Salamino, la strada oppure la trazzera o il magari l'autostrada. Perché la strada è longa, longa. Ricordate? Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti sulla strada longa, longa di Girgenti. Solo con i somari, in groppa agli asini o agli scecchi che dir si voglia, ci si può muovere in Sicilia. La signora Alitalia, poi, non ne parliamo. Nei giorni dell'emergenza, dopo l'incendio del Terminal 3 a Fiumicino, aumentò pure le tariffe dei voli per gli aeroporti di Sicilia, sempre che si riuscisse a partire. Ritardi, cancellazioni, singhiozzi che arrivano ancora oggi e non sono placati perché vale sempre il principio di bastonare il disgraziato, tanto è abituato. E solo con i somari si può viaggiare in Sicilia. Ricordate, il 12 aprile scorso crolla il ponte di Himera sull'autostrada Palermo-Catania. La Sicilia è spaccata in due e Graziano Del Rio, il ministro alle infrastrutture, arriva in bicicletta, perché lo vedete qui, Roma si muove sempre in bicicletta, e davanti a tanta grazia già bella rottamata, con presunzione renziana dice: entro tre mesi faremo una bretella di collegamento. Mario, oggi per esempio che giorno è? Oggi, che cos'è? Dove siamo? 28 maggio, siamo a Roma, allora, siamo io, te e Minoli in studio. Cosa perfetto, vuoi? No, ha detto tre mesi. Dunque, aprile se n'è andato, maggio ormai è agli sgoccioli, non si è visto nei paraggi del Ma ponte a giugno di capiterà tutto. Non si è visto una pala, un piccone. Allora siamo senza bretella. E senza bretelle in Sicilia si resta con una mano davanti e una di dietro. E però, sorpresa, sorpresa, la Sicilia è sempre più divisa in due. Ieri, infatti, è stato posto sotto sequestro il ponte 5 Archi, sempre sull'autostrada Palermo-Catania. Insomma, questi ponti in Sicilia, fortuna, non ne abbiamo. Non ce n'è. Proviamo a immaginare cosa sarebbe mai il ponte di Messina. Allora, non si può manco dire siamo a cavallo, perché che cosa abbiamo al posto del cavallo? Ecco, al posto del cavallo. Bene che vada, troveremo un asino zoppo. E quindi la morale della tragedia, non potendo essere favola, qual è? Chi contura Sicilia che con l'autonomia fottio pure a Mezzia e finem in carestia. Che bella la Sicilia, che grande ammirazione, per ogni elezione sforna clienti d'eccezione. Forse se lo chiamavano Ponte di Reggio Calabria invece che Ponte di Messina si faceva. Come non diceva so. D'Annunzio, qualcosa mi dice. Che il lungomare di Reggio Calabria è il più bello d'Italia. Sfido, si vede la Sicilia. Eccola su. Senti, qui ci scrivono moltissimi per questo discorso sulle over the top. Sì. È molto curioso vedere come in un anno si è rovesciato il sentimento. Quando abbiamo parlato la prima volta di web tax, si sono venuti addosso tutti perché sembrava perché che volessimo togliere web tax. Infatti è web tax, era sbagliato perché non è una tax sul web ma no. sugli operatori che attraverso web sfruttano e non pagano le tasse, non per colpa loro ma non le pagano. A proposito di titoli, un nostro ascoltatore ci ha suggerito titolo per l'intervista: pensaci Giacomelli, rifletti. Gigante, che pensaci proprio, tu proprio nella linea di no, quello ma mi chiedevi che... di Fiat non so. Se no ti stavo chiedendo di Fiat ma la Fiat che ha spostato la sua sede in Olanda non è la stessa cosa? Non proprio, perché Fiat ha 200... Che differenza c'è con Google? Enorme. Intanto Fiat ha 48.000 dipendenti in Italia, sì. per cominciare, un sacco di stabilimenti, quindi tutte le operazioni italiane sono tassate, sono tassate dal fisco italiano e rappresentano... Perché non è economia virtuale, naturalmente. No, è economia reale, cioè io vorrei ricordare... Ci sono gli stabilimenti e le fabbriche, qui invece non ci sono. No, questo è tutto lì. Voglio solo ricordare le dimensioni. Fiat sono 220.000 dipendenti, parliamo di una roba. Il tema è che il virtuale no, è diverso dagli stabilimenti, non ha un rapporto col territorio quindi la fiscalità legata al territorio non è più l'elemento decide. Ti faccio solo un esempio: io chiederei a Google di fare un centro di ricerca in Italia, tanto per dirne una. Lo chiederei anche ad Apple, magari, visto che vengono un sacco. Un'altra bolla. Questo è un grandissimo successo dei Simply Red, Money to Tie to Mention. Grandissimo. Allora, Renzi, dove va Renzi oggi? Renzi va da Marchionne, a proposito di Fiat, guarda, neanche a farlo apposta, in realtà abbiamo discusso di questo, va allo stabilimento FCA di Melfi e... Io vorrei ricordare che parliamo di una delle fabbriche d'auto più avanzate del mondo, ha vinto il World Class Manufacturing. E chi vuole può fare anche un viaggio interattivo sul sito web della Fiat. Vi assicuro che è molto interessante capire il processo produttivo. Ovviamente Renzi è in campagna elettorale. Questo è sicuro. No? Vabbè, dai. È chiaro. Vuole incontrare i nuovi assunti della Fiat col Jobs Act, che è una cosa fatta dal governo. Per lui, per Renzi intendo, sono un simbolo. Naturalmente tutte le cose, come sempre... I numeri per adesso non sono ancora così... Cioè, vanno valutati alla fine, secondo prima me. Della... Questo è il punto fondamentale. Certo. Bisogna sempre ricordare che le cose hanno della un realtà. Inizio e una fine. Prima della pubblicità, voglio ricordare, non l'abbiamo detto, che oggi è una giornata bellissima, almeno per me, perché è stata abolita la pena di morte anche in Nebraska, un altro stato americano. In Nebraska, che, ho visto. Vabbè, mi sembra una buona cosa. 800-24-00-24, numero verde, 349-238-6666, gli sms, pubblicità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Mix 24. Allora, facciamo questo canzoniere, vediamo se qualcuno indovina. Facciamolo. Dai. Come fra sprezzo ed ira sul labbro suo lo sdegno è bello, mai colpa di sangue tarda a tradirsi, ma più presto suole svelarsi amore se celarsi intende. Giorno pieno è la notte dell'amore. Aiutino? Allora, c'è il 12, c'è il 12, c'è il bardo, c'è la notte. Vabbè, 800-24-00-24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, il livello della cultura italiana si è un po' abbassato. E certo, c'è Renzi. Ne tieni... No! Ma no! L'hai vista l'ultima citazione? Basta, vai con la bolla. Shhh, concentrazione, silenzio. I've got you under my skin. Questo è Berlusconi puro invece. Beh, l'abbiamo messo perché di Berlusconi voglio parlarvi. Che dai. Io ogni tanto mi occupo del cavaliere. Bene. O dell'ex cavaliere, chiamate come volete. Insomma, no, è interessante perché Foreign Policy, che è una prestigiosa rivista di politica estera americana, eccetera, si è accorta del profilo Instagram di Berlusconi e dice che, insomma, queste foto sono l'espressione di Berlusconi nel suo massimo. E allora è interessante perché è un profilo Instagram aperto per la campagna elettorale e Foreign Policy riporta le migliori foto di Silvio nei suoi momenti elettorali, ma anche no, perché c'è un Berlusconi con Dudu, un Berlusconi con Francesca Pascale, è bellissima tra l'altro, viene poi ripresa con una signora che si chiama Clementina Vitali, Berlusconi con le torte di Forza Italia, Berlusconi con la pasta tricolore, Berlusconi con la pizza, Berlusconi che guarda il gruppo musicale Il Volo in Eurovisione. Insomma, Silvio su Instagram c'è. L'ultimo salamino, Pietrangelo. Davanti a me c'è l'Africa. Il 15 maggio c'è stato il debutto al Teatro Greco di Siracusa, Le Supplici di Eschilo, regia di Monio Vadia, ed è un grande successo, ed è il grande cuntu tra ritmi magrebini e le melodie greche. Il protagonista è il coro, che si trasfigura nel racconto dei migranti, e siccome la tragedia di Eschilo si trasforma nella cantata, Ovadia ha chiamato con sé Mario Incudine e altri due musicisti, Antonio Vasta e Pippo Caballà, partecipi di uno spettacolo la cui attrezzeria con il darbucà, il bozuki, il mandoloncello, i tamburi e i cembali già serve a far star zitti chi pretende dal Teatro Greco la pedissequa Alexio ginnasiale. Peccato. Tutti siamo armati del Rocci, il meraviglioso dizionario greco-italiano, e la messa in scena è stata tradita, tradotta al meglio in lingua siciliana, con straniante inserti in greco moderno, perché da sempre i puristi si sono spellati nel battimani con un'altra traduzione del repertorio tragico, Uciclopu di Euripide, tradotto da Luigi Pirandello. Uciclopu. Tradotto da Pirandello, uno spettacolo meraviglioso su cui fu grande, grande. Sai che io solo la Unedas, però certo. Vabbè. Allora, però non è una stravaganza fare parlare Eschilo con la metrica siciliana dell'ottava rima, perché si asseconda la superba battuta di Gino Astorina, maestro d'umorismo, che traduce anche il nome dell'autore. Eschilo? Nescilo! Ah, forse c'è un miracolo, Pietrangelo. Tommaso da Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, hai indovinato? Sì, l'aiutino era molto forte. Certo. Per fortuna. La dodicesima notte di Shakespeare. Ah, complimenti. No. Giusto, giusto, Petrelli. È venuto un dubbio. Senti, Marina, Marina Milone, oggi dopo il giornale radio, che storia ci racconti? Oggi raccontiamo la storia di un grande giornalista ucciso dalle BR il 28 maggio 1980 a soli 33 anni. È Walter Tobagi che lascia una lezione di impegno civile oltre che di alto giornalismo. Sull'omicidio di Tobagi, ma soprattutto sulle indagini fatte subito dopo, ci sono state molte polemiche che commentiamo con il giornalista Renzo Magosso. Bene, benissimo. Dopo il giornale radio, il delitto Tobagi. E prima di chiudere, Pazienza di Gianna Nannini. Cerchi di parlare, da quale sogno vuoi tornare, da quale angolo lontano. Ombre a rincorrersi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te.